Eccoci tornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e stiamo per iniziare questo redazionale sulla figura di un personaggio del Novecento, un compagno, Franco Fortini, di cui fra qualche giorno, per l'esattezza il 28 novembre, saranno 20 anni dalla morte e quindi ci sembrava importante parlarne oggi proprio perché se ne parla molto poco, perché sicuramente si tratta di una figura scomoda all'interno di questo pastone di concordia che sta un po' attraversando per vari aspetti il nostro paese. Vai. Sì, salve. L'occasione della trasmissione su Fortini è sicuramente fornita dal fatto che appunto fra poco ci sarà il ventennale dalla morte, però questa è, diciamo, una occasione comunque che fa riferimento a un anniversario, quindi è una cosa che si può ricordare, si carica di significati, però non è, diciamo, la chiave vera. La chiave vera è questa, che di Fortini oggi abbiamo bisogno, cioè hanno bisogno tutti quelli che pensano che un'idea di rivoluzione sia ancora possibile. Purtroppo molti compagni di strada di Fortini hanno fatto una brutta fine, almeno dal mio punto di vista, cioè nel senso che hanno rinunciato a qualunque possibilità di lottare per cambiare questo sistema. E quindi il suo esempio è un esempio innanzitutto di testimonianza, cioè testimonianza di verità, ma la verità di Fortini non è una verità astratta, è una verità concreta, si riferisce al fatto che comunque in una società divisa in classi bisogna prendere posizione e quindi a partire dal punto di vista degli sfruttati e degli oppressi, questa è la verità che va affermata sempre e comunque, qualsiasi sia il prezzo da pagare, e questo Fortini, di questo Fortini era pienamente consapevole e ha pagato duramente un prezzo di isolamento sostanzialmente all'interno della sinistra, non solo della sinistra riformista, ma anche la stessa sinistra rivoluzionaria quando ancora esisteva e si diceva appunto sinistra rivoluzionaria, prendeva da lui le distanze in qualche modo, perché le cose che Fortini diceva non erano mai accomodanti, cioè dire la verità senza infingimenti significa anche, voglio dire, tener conto delle miserie, degli errori che all'interno della sinistra, e anche, lo sappiamo perfettamente, della sinistra che si diceva rivoluzionaria, sono avvenuti. E l'elemento importante è il fatto che Fortini sempre ha tenuto presente, no, il discorso della coerenza rispetto a quello che uno che si dice comunista deve mantenere, cioè la coerenza significa le cose in cui credo e per cui mi batto devo anche praticarle concretamente, cioè quindi non è un discorso puramente teorico, è un discorso che richiede un impegno costante nella vita quotidiana, cosa che lui ha sempre fatto. E altro elemento molto importante, perché quando diciamo ricordiamo Fortini lo ricordiamo per questi motivi, ma per chi, cioè diciamo non solo le persone che non lo conoscono, e purtroppo oggi penso che siano tante, non si rendono conto che appunto probabilmente il discorso di essere di manifestare un'intransigenza rispetto ai principi nei quali si crede non è una debolezza, non è una manifestazione di rigidità di pensiero, anzi è tutt'altro, cioè i compromessi si possono fare su questioni diciamo che non investono i principi, perché chi è pronto a svendere i principi è chiaro che a questo punto sarà pronto a qualunque cosa, e abbiamo l'esempio quotidiano di che cosa è diventata, no, questa situazione. Direi che forse tanto per così pensando di introdurre questa figura e pensando soprattutto a un pubblico che ci ascolta che non l'ha conosciuto per motivi di età o non l'ha conosciuto perché non ha avuto l'occasione, forse leggere, no, iniziare questo approfondimento sulla sua figura, sulla sua personalità e sul suo operato, vale la pena di leggere, no, qualcosa che si era preparato per introdurre subito questa. Sì, prima io direi una cosa, certo. al limite voglio dire, per Fortini vale quello che vale per i grandi, cioè bisognerebbe fargli parlare direttamente, anzi voglio dire, noi stiamo mediando in qualche modo, cioè dovremmo essere puramente e semplicemente quelli che riferiscono le cose che Fortini ha detto. Fortini, che è una personalità complessa, estremamente variegata e poliedrica, che è stato un grande poeta, un grande critico letterario, uno straordinario saggista, uno straordinario organizzatore culturale. È chiaro che qui quello che ci interessa è l'elemento fondamentale, diciamo, della politica, l'elemento politico. Perché? Perché Fortini giustamente parte da questa cosa che è assolutamente fondamentale, e la, diciamo, il rapporto fra cultura e politica, per cui cultura e politica sono una medesima cosa, espressa con mezzi diversi. Contrasto si può avere soltanto fra due teorie o due pratiche. Ogni volta che un pensiero non ha mani, o le ha deboli, o che le mani non hanno pensieri o lo hanno fiacco, saranno un astratto pensiero e una volgare politica. Non esiste un momento nel quale sia sospeso il dovere di dire la verità. La verità non cade in prescrizione o in letargo. Ecco, questa era una citazione di Fortini in una lettera a Vittorini. L'elemento, diciamo, che mi sembra fondamentale sottolineare è quello che diciamo, la sua vita è testimonianza di verità, sostanzialmente. Di verità, però una verità, come dicevo all'inizio, una verità di parte. Non nel senso evangelico del termine. Assolutamente no. Precisiamolo, la verità. No, la verità. Assolutamente, è la verità, come dicevo all'inizio, cioè chi prende il punto di vista e lo porta avanti con estrema coerenza degli sfruttati e degli oppressi, deve affermare questa posizione sempre, costantemente, qualsiasi sia il prezzo da pagare. Lui è stato un isolato, malevolmente l'hanno considerato un grillo parlante, no? Perché richiamava alla coerenza e all'intransigenza quelli che invece erano pronti a qualunque cosa, e invece è la coscienza critica di fatto della sinistra italiana, e quindi questo è un elemento fondamentale per ricordarlo e per attualizzarne il pensiero. Io direi a questo punto, proprio se vogliamo così dare un esempio concreto, no? Abbiamo scelto, insomma, insieme due testi, no? Che si compendiano a vicenda e che danno il senso, proprio così, come attacco di questo che tu adesso andavi dicendo, insomma, quindi come esempio della sua personalità. Direi che sì, però prima, diciamo, siccome molti compagni in ascolto non conoscono Fortini, sarebbe importante dare qualche cenno, no? Cioè, sicuramente di carattere biografico, certamente. Per dire, ecco, chi è Fortini, sostanzialmente, diciamo, i passaggi più significativi. Sì, però, salve a tutti. Allora, due o tre informazioni per capire chi è stato Fortini. Fortini nasce a Firenze nel 17, quindi l'anno della rivoluzione d'ottobre. Negli ultimi anni della vita, è una frase che ripeterà spesso, gli anni della rivoluzione d'ottobre. 1917 nasce a Firenze, fondamentalmente i grandi passaggi poi della sua vita sono la resistenza, come buona parte della generazione nata fra cavallo, fra gli anni 10 e gli anni 20 in Italia. E dopo la resistenza Fortini si trasferisce a Milano e vivrà tutta la vita a Milano, lavorando nella seconda parte della sua vita, dagli anni 70 in poi, all'Università degli Studi di Siena, insegnando storia della critica letteraria. Ma la cosa più interessante in realtà sono gli anni fra gli anni 50 e gli anni 60, dove Fortini invece farà esperienza di due realtà molto interessanti. La prima, l'Olivetti, sarà un consulente editoriale e pubblicitario anche per l'Olivetti, da cui poi verrà licenziato all'inizio degli anni 60 anche per ragioni di politiche vere e proprie. E l'altro invece, l'Einaudi, sarà un consulente Einaudi sempre dagli anni 50, inizio anni 60, e anche lì verrà licenziato nel 1962, se non sbaglio, sempre per ragioni politiche. Dopodiché insegnerà nelle scuole secondarie della provincia di Milano, a Monza. Tra l'altro avrà fra i suoi allievi un cantautore un po' lugubre, però a molti magari piace ancora, come Branduardi. Branduardi è stato un allievo di Fortini, non so se questo è un merito o qualcos'altro, comunque diciamo sì, che è una curiosità, è una curiosità sicuramente, sì, poi lasciamo giudizio agli altri. E comunque sia, insomma, le grandi tappe della sua vita, come le ripeto al volo, sono Resistenza, anni 50, anni 60 come lavoratore appunto delle Naudi, dell'Olivetti, e poi negli anni 60 come organizzatore e intellettuale che ha lavorato insieme al gruppo dei Quaderni Rossi e poi dei Quaderni Piacentini. Quindi poi ci sono gli anni 70, e negli anni 70 in poi invece lavorerà a Siena come professore universitario. Questi bene o male sono le grandi tappe della vita di Fortini, così in modo assolutamente informativo. Volendo così sempre per ad uso di chi ci ascolta, l'esperienza del Politecnico, come è giudicata quella in questo importante, decisiva, insomma per dare, no? Anche perché l'esperienza del Politecnico già come esperienza a sé andrebbe trattata, no? Al di là della figura di Fortini, però insomma due parole su questo, perché magari interessa a chi ci ascolta, proprio due poche parole. Sì, Fortini conosce Vittorini proprio durante gli anni di guerra, nel 43, e tornato dalla finita la guerra, insomma, Vittorini vuole con sé Fortini all'interno della redazione del Politecnico. Per Fortini il Politecnico è un'esperienza fondamentale, un'esperienza direi formativa, anche perché quel tipo di riflessione sulla, che appunto abbina cultura e politica in termini di rottura con la tradizione, sia della tradizione politica novecentesca, perché insomma lì si vuole dare forma ad un pensiero che è rivoluzionario, perché è il pensiero che porta avanti la lotta, che vuole portare avanti insomma le lotte aperte dalla Resistenza 43-45. Ovviamente il caso politico della chiusura del Politecnico è già un caso interessante e mette in allerta subito Fortini sui pericoli dello stalinismo italiano, diciamo, chiamiamolo così, del togliattismo come stalinismo italiano. Fortini non sarà mai iscritto al PC, si iscriverà al Partito Socialista e per una decina di anni sarà appunto un attivista del Partito Socialista, scriverà sull'Avanti, però anche dal Partito Socialista poi darà le dimissioni nel 57. Quindi sì, il Politecnico è importante perché da subito la questione dei due grandi partiti della sinistra italiana, cioè il Partito Comunista e il Partito Socialista, si vede subito la differenza fra i due partiti, nello stesso tempo si vede subito però come il secondo, cioè il Partito Socialista, in realtà non è che fosse realmente un'alternativa reale al Partito Comunista. Dava un po' più di libertà agli intellettuali, tutto qui, ma fondamentalmente fino al 56 è sempre stato allineato con le politiche di Togliatti. Quindi Fortini si trova subito all'interno di un conflitto che cercherà poi per tutta la vita, perlomeno per quei 10 anni che lui chiamerà 10 inverni, di decifrare in termini appunto politici. Questa è un po' la... Sì. A questo punto abbiamo deciso di partire una cosa, un intervento che Fortini ha fatto proprio alla vigilia della propria morte. Perché? Perché pensiamo che in questo intervento siano veramente riassunti alcuni elementi fondamentali che hanno attraversato tutta quanta la sua vita, cioè tutti i 40-50 anni di impegno in varie direzioni, sempre politicamente determinato. E quindi allora vale la pena, oltretutto vale la pena leggerlo sicuramente, oltretutto anche perché affronta un tema che è particolarmente interessante, tenuto conto anche che l'intervento è del 94, quindi siamo alla vigilia del ventennio berlusconiano, e quindi il problema dell'informazione diventa cruciale. Allora parte così questa lettera all'Assemblea per la libertà dell'informazione. Indirizzata, ecco, questo è il titolo, sì. Ma fisicamente non era indirizzata fisicamente a nessuno, era... No, così, era alle persone presenti. Una lettera aperta. Una classica lettera aperta, sì, all'Assemblea. Quindi, cari amici, non sempre chiari compagni, cari avversari, non invisibili agenti e spie, non chiari ma visibili nemici, sapete chi sono? Spero di non dover mai stringere la mano né a Sgarbi né a Ferrara né ai loro equivalenti oggi esistenti anche nelle file dei progressisti. Non l'ho fatto per mezzo secolo, perché dovevi farlo ora? Mi hanno insegnato che la libertà di espressione del pensiero, sempre politica, è sempre stata all'interno della cultura dominante, anche quando la combatteva. Tutto intorno ai suoi confini, però, c'erano lungo i secoli miliardi di analfabeti, inquisizioni mistiche o a scelta, grassi Doberman accademici, reparti speciali di provocatori incaricati di picchiare i tipografi e distruggere i manoscritti. Ci sono, puoi ordinarli per posta, manuali per l'uso della calunnia nel management della comunicazione, lupare bianche, colpi alla nuca o nel più soave dei casi la damnatio memoriae, il nome omesso o deformato, l'associazione indiretta con qualche notorio cialtrone. Ma ci sono momenti in cui il solo modo serio di dire noi è dire io, la prima persona, quel qualcosa che viene dopo la firma. Questo è uno di quei momenti, due o tre, in una vita anche lunga. Bisogna spingere la coscienza agli estremi, dove, se c'è, c'è ancora e per poco. Cerchiamo almeno di diminuire la quota degli ingannati. Ripuliamo la sintassi e le meningi. Non scriviamo un articolo al giorno, ma impariamo a ripeterci contro l'audience e i contratti pubblicitari. Lungo canali di storica vigliaccheria mascherata di bello spirito, i colleghi della comunicazione stanno, giorno dopo giorno, cambiando o lasciando cambiare i connotati dei quotidiani, in attesa che se ne vadano quei pochissimi direttori che non hanno già concordato o conciliato. Quanto a me, solo l'età mi scampa dal dovermi dimettere da qualcosa. Mai, come oggi, credo, il massimo della flessibilità politica, tattica del politico vero dovrebbe andare d'accordo con la rigidità delle scelte di fondo. Anni fa scrissi enfaticamente che il luogo del prossimo scontro sarebbero state le redazioni. Quel momento è venuto. Il luogo è questo. Chi tiene famiglia, esca. Chi ha figli sappia che un giorno essi guarderanno con rispetto o con odio alle sue scelte di oggi. Cari amici, non sempre chiari compagni, cari avversari, non sempre invisibili agenti e spie, non chiari ma visibilmente nemici, vi saluta un intellettuale, un letterato, dunque un niente. Dimenticatelo, se potete. E questa, lo ripetiamo, la data è del 94, pochi mesi prima. No, pochi giorni prima della morte. Pochi giorni prima addirittura della sua morte. Insomma, no? Sì. E io adesso, prima di dare la parola a Daniele, che legge viceversa sempre un altro pezzo di Fortini, dell'ultimo periodo, l'abbiamo scelti apposta, quasi a compimento di questa sua lunga storia, partire dalle ultime cose scritte, tra virgolette, per poi ripercorrere, insomma, a ritroso, insomma, dall'inizio questa personalità, questa figura. Però permettetemi una battuta su, perché proprio quando parla del ripulire la sintassi e quindi dell'uso del linguaggio, della comunicazione, che lì in particolare lui se la prende con le redazioni, perché in quel momento l'informazione e la comunicazione erano un po' sommate, quasi identificate negli stessi mezzi. Insomma, oggi non è più così, c'è una perdita completa e confusione tra comunicare e informare, sono due cose completamente diverse. Ma è un messaggio che dovrebbero proprio ponderare e rifletterci sopra parecchio anche i giovani di movimento oggi, per il modo che hanno di comunicare. Insomma, io penso a questa bestiale moda dell'usare i simboli e i mezzi della comunicazione mediatica attraverso le forme, no, di Twitter, di Facebook, di altre cose, per cui dal presidente del Consiglio Renzi a gli antagonisti di movimento si usa il cancelletto, no? Certo. Si dà questa cifra, che non è una cifra metaforica, è una cifra reale indotta dai mezzi dell'informatica, e quindi si mette poi un argomento lì stirato in 120 caratteri, 140, insomma, no? Quindi costretto, i ragionamenti vengono costretti in queste forme pazzesche. Insomma, ecco, questo monito di Fortini scritto 20 anni fa mi sembra calzi a pennello. Insomma, proprio l'invito, riflettete, insomma, su come parlate, come comunicate, sì, sì, come vi esprimete, pensateci, ecco. Sì. Daniele, a te la parola. Dopo questo testo, che appunto è stato pubblicato su Disobbedienze, che è una raccolta di saggi, perché fu pubblicato sul Manifesto, poi questo ultimo intervento di Fortini, e poi il Manifesto pubblicò molti anni dopo due volumi che raccolsero tutti i saggi e gli articoli che Fortini pubblicò sul Manifesto. Invece ora leggiamo invece un testo poetico. Fortini è stato un grande poeta, uno dei più importanti poeti del secondo Novecento italiano. Questo testo è praticamente il testo che conclude l'ultima raccolta, che si intitola Composita Solvantur, che vuol dire ciò che composco si dissolva, è anche un principio alchemico. È un testo abbastanza difficile perché si alternano più voci, quindi io vi dico già che nella lettura cercherò di farvi capire la differenza fra queste tre voci. Una voce è la voce, diciamo così, di Fortini, dell'io poeta, si direbbe in termini scolastici, cioè di un uomo anziano che cammina ormai alla fine della vita e ripensa al suo passato e osserva quello che sta accadendo intorno a lui. Questa è la prima voce. Poi esistono altre due voci, una seconda voce che è invece una voce, direi, biblica quasi, è una voce che parla alla creazione del mondo e dell'universo, e alterna quindi lo sfacelo che il vecchio vede intorno a sé con invece la natura e gli animali, insomma un paesaggio di tipo biblico, anche se un paesaggio che poi viene corretto alla fine appunto dal fatto che il finale non è più biblico ma è un finale storico, perché l'ultima voce invece che parla nel testo è la voce di un eroe, un militare russo che difese Mosca dalle armate naziste nel 1945, il commissario Kokhlov. Quindi tre voci: il presente, quindi un anziano che cammina e vede quello che sta succedendo attorno a sé, una voce biblica che racconta quello che realmente è, dal punto di vista ovviamente biblico, la creazione, il mondo, la natura, la forza della natura, e poi un elemento, un piccolo ma importante avvenimento storico, cioè la difesa di Mosca durante la Seconda Guerra Mondiale. Appunto, Fortini non è mai stato, come abbiamo detto prima, uno stalinista, non ha mai preso la tessera del PC, però alla fine della vita ovviamente contano anche i simboli, e ovviamente Mosca in un periodo storico come questo, cioè siamo nel 1993, la pubblicazione di Composita Solvantur, quindi dopo la caduta del muro di Berlino e l'implosione dell'Unione Sovietica, quello che conta è comunque ricordare che c'è stata una rottura rivoluzionaria e che quella possibilità quindi è sempre aperta. Leggo il testo e cercherò appunto di alternare le voci per quanto è possibile. E questo è il sonno. Come lo amavano il niente, quelle giovani carni. Era il domani, era dell'avvenire il disperato gesto. Al mio custode immaginario ancora usavo pochi anni fa, fatuo vecchio, pregare di risvegliarmi nella santa, viva selva. Nessun vendicatore sorgerà, l'ossa non parleranno e non fiorirà il deserto. Diritte le zampette in posa di pietà, manto color focaccia, i ghiri gentili dei boschi lo implorano ancora, levando alla luna le griffe preumane. Sanno che ogni notte s'abbatte la civetta, affaccendata e zitta, tutta la creazione. Carcerate nei regni dei graniti, tradite a gemere fra argille e marme, sperano in uno sgorgo le vene delle acque, tutta la creazione. Ma voi che altro di più non volete se non sparire e disfarvi, fermatevi. Di bene un attimo ci fu, una volta per sempre ci mosse, non per l'onore degli antichi dei né per il nostro, ma difendeteci, tutto è ormai un urlo solo, anche questo silenzio e il sonno prossimo. Volokhamskaya Chosse, novembre 1941. Non possiamo più, ci disse, ritirarci, abbiamo Mosca alle spalle. Si chiamava Kokhlov. Rivolgo col bastone le foglie dei viali. Quei due ragazzi mesti scalciano una bottiglia. Proteggete le nostre verità. Ecco, è questa la chiave, quest'ultimo verso, la chiave per capire che cosa significa praticamente, che cosa è stata tutta la sua vita, per affermare queste verità che adesso vengono messe in discussione così duramente da una serie di eventi che sono accaduti e con i quali bisogna fare i conti. Proteggete le nostre verità, ma a chi si rivolge? Chi deve proteggere queste verità? Cioè siamo tutti chiamati in prima persona a impegnarci per difendere la possibilità di pensare che la rivoluzione sia possibile, perché altrimenti non c'è alcuna speranza, cioè il destino è assolutamente, voglio dire, insomma, ci presenta funesto, cioè nel senso che non ci sono proprio minimamente segnali di luce. Ecco, invece è possibile questa cosa, è stato possibile, adesso facciamo un salto all'indietro e ricominciamo partendo dalla resistenza. Benissimo, però prima, anche perché lo merita lui, ma lo meritano anche chi c'è all'ascolto, mettiamo l'Internazionale. Fortini riscrisse l'Internazionale, sì, con parole sue, sì, che è molto bella come testo, no? Certo, certo. Senza togliere niente all'Internazionale classica, perché ha questo valore storico, eccetera, però insomma ecco. Sì, l'ultima cosa, forse... scusa, che, visto che va all'Internazionale, l'elemento forse da sottolineare è questo. L'Internazionale che fu vinta e vincerà. Questo, fu vinta e vincerà. Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'Internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968-1971-1990, e questa è l'ultima versione, 1994. Noi siamo gli ultimi di un tempo che nel suo male sparirà, qui l'avvenire già presente, chi accompagni non morirà, al profitto e al suo volere tutto l'uomo si tradì, ma la comune avrà il potere, dove era il no faremo sì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che uguale, l'uomo all'uomo farà, e l'Internazionale fu vinta e vincerà. E tra di noi divideremo lavoro, amore, libertà, e insieme ci riprenderemo la parola e la verità. Guarda in viso, tienili a memoria, chi ci uccide e chi menti, compagni, porta la tua storia alla certezza che ci uni. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Noi non vogliamo sperare niente, il nostro sogno è la realtà. Da continente a continente, questa terra ci basterà. Classi e secoli ci hanno straziato tra chi sfruttava e chi servì. Compagno, esci dal passato, verso il compagno che ne uscì. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Questa era l'Internazionale, scritta da Franco Fortini, di cui stiamo parlando stamattina, e volevo solo dire un paio di cose brevissime. La cantava Ivan Della Mea, anche lui non c'è più, e rimaneggiata, come dice Della Mea, durante la canzone, e ce ne dà anche l'ultima versione. E stiamo parlando di un compagno, ma anche di un poeta, di un letterato, e colpisce la semplicità di queste parole che richiama alla mente la lode al comunismo di Brecht, se mi posso permettere questa citazione. È semplice e chiunque lo può capire. Sì, sicuramente il riferimento alla lode per il comunismo di Brecht, che voglio dire potremmo anche riprendere in un secondo momento, perché alla fine dovremmo poi in qualche modo prendere posizione anche noi rispetto alla lezione che Fortini ci ha dato. Quello volevo solo ricordare che comunque è giustissimo il riferimento, visto che Fortini è stato il traduttore italiano di Brecht. Sì, quindi una delle tante cose che ha fatto, traduttore straordinario dal tedesco, no, di Goethe, no, del Faust, e poi di Brecht, col quale aveva una veramente non solo un'amicizia, ma anche sostanzialmente alcune cose. È impressionante, da un certo punto di vista, alcune poesie di Brecht potrebbero essere di Fortini e viceversa, cioè nel senso che c'è una condivisione proprio di quello che è il mondo ideale di riferimento, e quindi voglio dire, è importante anche questo sottolineare questo elemento. Però ripartiamo dall'inizio, dall'impegno che si manifesta per la prima volta in Fortini in maniera determinata, con la partecipazione alla Repubblica dell'Ossola, e quindi con l'intervento e l'appoggio, il sostegno alla lotta di liberazione, no? E alla resistenza. Resistenza, fenomeno popolare, cioè di massa. Mentre l'antifascismo che poi si è sviluppato, cioè le riflessioni che sono state fatte, in buona parte, per esempio, Fortini stesso dice, no, che possono in qualche modo essere, come dire, inquinate, fra virgolette, dal fatto che poi chi promuoveva questa forma di antifascismo non erano appunto le masse in prima persona, ma appunto un'elite culturale, no? Che in qualche modo si doveva anche rifare una verginità, no? Perché buona parte di questi personaggi avevano attraversato il fascismo, con varie forme, con varie adesioni, ricordiamolo, anche figure molto rappresentative, no? Di quello che poi sarà il partito, stato il Partito Comunista. Intervengo per sì. Così un po' anche per spezzare la cosa, per chiedere insomma una cosa a Daniele. Qua, adesso Virginio diceva cioè, ripresentava la questione fatta da, propria da Fortini, che questa sottile, sottile ma importante distinzione, no? Tra la dimensione popolare di massa della lotta di liberazione e l'antifascismo, intesa come lotta anche a un'ideologia, a un sistema poi pratico, non solo un'ideologia ma un sistema pratico, che è di provenienza elitaria in qualche certo. modo, no? Diceva così. Ecco, sì. questo non richiama un po' il giudizio storico che più o meno si è dato anche sul Risorgimento italiano, insomma. Allora la domanda è, dice, ma c'è un vizio di fondo qua in queste situazioni, oppure è solo, diciamo, un caso, una combinazione, insomma? Beh, io direi che Fortini sta su questa linea, cioè sì. c'è un vizio di fondo, perché lui dice proprio che l'antifascismo è un'operazione di vertice. Dicendo questo, poi la storiografia successiva avrà studiato tantissimo la continuità delle strutture di fondo dello Stato, no? Fra lo Stato fascista e lo Stato repubblicano. E ovviamente perché questa continuità sia possibile, ovviamente lo Stato repubblicano ha dovuto trasformarsi in uno Stato antifascista, ma ha mantenuto delle strutture di fondo che sono le stesse dello Stato totalitario di Mussolini. Quindi l'antifascismo, questa è l'idea di Fortini, è servito storicamente ad un certo punto per consentire questo passaggio, che però di fatto è un passaggio di vertice, non è un passaggio sostanziale, mentre la resistenza invece è stato un fenomeno popolare. Certo. E quindi sì, tutto quindi... il discorso sull'emancipazione vera, reale delle masse ne è escluso ancora. Esattamente. È un processo semmai di là da venire. Ci sono le responsabilità grandi di chi poi nella resistenza ha avuto sicuramente, insomma, ha esercitato anche un'egemonia di fatto, no? Il Partito Comunista Italiano, che sicuramente, voglio dire, ha dei meriti indubbi per quanto riguarda l'organizzazione della lotta, sì, no? Che è stata fatta, eccetera, eccetera, però su questo, ma non è questo il punto, certo. Cioè, non a caso, il discorso della defascistizzazione, cioè abbiamo vinto finalmente il fascismo, quindi il fascismo deve essere spazzato via, perché è spazzatura appunto dalla storia, e per fare questo però bisogna essere conseguenti, cioè non si può operare come è stato fatto. Voglio dire, non a caso era Togliatti il ministro, no, di grazia e giustizia, che fa un'amnistia che rimette, fascisti, certo. che rimette non so, 6-7 mila fascisti, che oltretutto erano in gran parte, cioè veramente personaggi che avevano fatto di tutto e di più, le cose peggiori, le peggiori nefandezze. E la giustificazione di questo qual è di fondo, no? Perché bisogna pacificare il paese. Allora, invece della pacificazione, il risultato che è stato ottenuto da questo, diciamo, improvvido e mai, diciamo, troppo poco, diciamo, rifiutato rifiutata scelta che è stata operata in maniera sconsiderata, anzi veramente è stata operata con piena considerazione e con piena coscienza, ma ha portato a risultati estremamente negativi. Quindi è la permanenza, il risultato di tutto questo è la permanenza nei posti chiave dello Stato, in tutte le sue articolazioni, di personaggi compromessi con il fascismo, e il che ha dato anche la possibilità, quando poi si dice il discorso del rapporto fra fascismo in una prima fase e Democrazia Cristiana, no? Che eredita questa, di fatto che eredita questa scusate, che eredita questo sfacelo, no? Che è stato operato dal fascismo, quindi tutti gli errori, la sconfitta, la guerra, eccetera, eccetera, però la Democrazia Cristiana di fatto diventa poi l'erede vero del fascismo stesso, no? Sì, questo in qualche modo. Qui, insomma, adesso poi torniamo a Fortini, insomma, da qui parte poi tutta la retorica del Partito Comunista. Chi non ricorda Paglietta o gli altri esponenti che diceva: io col fascismo i conti li ho chiusi, quindi non ne ho più sentito, che era, diciamo, un'aberrazione, perché poi pura retorica, non era è pura retorica, retorica antifascista, appunto. Sì, esatto, come si diceva lì. E purtroppo su questa retorica antifascista si è creata una presunta identità antifascista che poi oggi scopriamo non esistere assolutamente, certo, assolutamente. Anzi, si verifica poi col revisionismo il fenomeno inverso, per cui si rivaluta addirittura Salò, però qui certo. Forse stiamo sì, divagando. Sì, sì. No, certo, a Fortini certo. Con sì, grazie a Violante, sì, sì. Così, insomma, grazie a sì, Violante. Sì, no, ecco, no, no. Quindi dopo questo cenno alla resistenza, il passaggio successivo. Ah sì, dopo la resistenza, diciamo, sono come si sviluppa il discorso. Gli anni 50 e gli anni 60 soprattutto, cioè gli anni in cui Fortini in un primo tempo appunto milita all'interno del Partito Socialista e poi esce dal 57 dal Partito Socialista. Chi volesse leggerlo, il primo saggio politico di Fortini si intitola 10 inverni ed è appunto la raccolta di tutti i suoi interventi politici degli anni 50 e sono molto interessanti perché è uno dei pochissimi intellettuali insomma, di sinistra di quegli anni ad attaccare direttamente l'Unione Sovietica in maniera molto netta e molto esplicita. Insomma, è uno dei pochi saggi antistalinisti. Su che le attaccava? Insomma, diamo anche questo breve, se possibile, questo breve squarcio. Cioè, su cosa l'attaccava? Sull'ideologia o sulle cose, diciamo, più concrete? Su due temi. Il primo, il fatto che fondamentalmente, da un punto di vista appunto di chi voleva essere un quadro politico all'interno di appunto dei partiti della sinistra storica, si rendeva benissimo conto che il vertice decideva da sé, punto. Quindi l'assoluta mancanza di democrazia interna al partito qui, sì, perché sì, poi certo, è evidente, esatto, che è così, certo. E quindi poi invece la rivalutazione di tutte le correnti che hanno cercato di sperimentare una forma alternativa di comunismo come autoeducazione, autoformazione, auto-organizzazione, certo, controllo, certo, e così via. Sono negli anni in cui anche attraverso il Ragnano Panziere ritorna tutta la riflessione sul controllo delle macchine come la, sì, tradizione vetero-socialista di fine 800 inizio 900, che però è la tradizione che poi consente a questo gruppo di interpretare subito le trasformazioni del boom economico del capitalismo proprio, certo, negli stessi anni in cui il PC invece organizzava ancora convegni sul capitale stagnazionistico, quindi sì, sì, un'ottica, certo, completamente, sì, incapace di vedere quello che stava realmente succedendo in Italia negli anni del boom. So che Virginia, sì, voleva leggere un pezzo. No, manca a fare la posta. Fortini, che è stato Panziere, sempre molto polemico, ma non, voglio dire, inutilmente polemico o pregiudizialmente polemico nei confronti di molte figure di intellettuali e politici del suo tempo, prende invece una posizione molto precisa nei confronti di una persona e di un compagno straordinario, che è il fondatore dei Quaderni Rossi, Panzieri, a lui vicino in tutti i sensi, e siccome Panzieri è morto molto precocemente, io vorrei ricordare quello che Fortini scrive in memoria di Panzieri, brevemente. Era necessario vedere il modo tenuto da Raniero Panzieri per morire, per rammentare che la lotta delle classi ha molti modi di fare le sue vittime. Di destini come quello di un Panzieri noi abbiamo bisogno. Lasciamo all'ipocrisia di molti, capaci anche di dirsi marxisti, la valutazione dei meriti intellettuali o politici, grandi, e ce ne accorgeremo. Le teste di quei molti non potranno capire mai, socialisti o comunisti moderni come sono, cioè educati alla scuola dei valori del capitalismo, che Panzieri, per noi, molto più di quello che egli è stato, è quello che non è stato. Egli è stato anzitutto il diverso dagli altri, il diverso da quelli. Chi cerca le proprie amicizie fra gli invisibili diviene presto invisibile. Sta parlando anche di se stesso in qualche modo, perché il destino di Fortini è proprio analogo diciamo, a quello che è stato il destino di Panzieri, anche se Panzieri è morto così precocemente, ma comunque un compagno straordinario da ricordare anche questo, no, per quello che ha fatto. Cioè, i Quaderni Rossi effettivamente, come diceva lui, sono stati, diciamo, l'inizio di un ripensamento, no, di come fosse possibile, di come si potesse pensare alla rivoluzione partendo dalla realtà materiale, cioè dalla fabbrica, dal ciclo Fiat, dalle macchine, no, e dall'uso delle macchine. Sì, infatti, diciamo che le esperienze fondamentali degli anni 60 sono, per un verso, i Quaderni Rossi, appunto, e l'altro invece, esperienza fondamentale, sono i Quaderni Piacentini. Fortini è anche un po' costeggiato classe operaia. Voi sapete che c'è stata una scissione molto famosa fra Quaderni Rossi e classe operaia. in una prima fase Fortini era anche molto vicino alle posizioni di Tronti, però poi di fatto ha sempre lavorato all'interno soprattutto dei Quaderni Piacentini, quindi all'interno di una rivista che aveva sì una linea politica abbastanza, come dire, precisa, ma più che altro era una rivista di tipo culturale, faceva battaglia culturale con persone come Edoardo Amasi, Sergio Bologna, Goffredo Fofi e così via. Questi anni sono gli anni anche però in cui Fortini prenderà posizioni in maniera molto netta, e qui poi ci leggerà qualcosa Virginio, no, sul Vietnam direi prima. Vabbè, sì, possiamo sicuramente, sì, possiamo partire dal Vietnam, ecco. Perché voglio dire, è stato, scusa, cioè, siccome tu hai citato Tronti, mi è rimasta una cosa che voglio semplicemente far riferimento al fatto che, appunto, a proposito di coerenza, no, delle proprie posizioni, mi è capitato, come sarà capitato a qualcuno, di leggere le ultime posizioni espresse da Tronti in un'intervista su un giornale da poco, mi pare Repubblica, ed è veramente sconfortante e molto irritante il fatto che un personaggio che comunque è stato importante all'interno della sinistra, sedicente rivoluzionario e poi anche, voglio dire, il rientro all'interno del PC con tutti, no? E poi adesso la posizione assolutamente allineata e coperta, comunque insomma il problema è questo: a noi non è stato possibile fare la rivoluzione, la sconfitta è una sconfitta non di cioè abbiamo perso delle battaglie anche grave, eccetera eccetera, no, è la sconfitta definitiva, quindi nessuno adesso può pensare di fare, diciamo, la rivoluzione, no? Ecco, non è stato possibile a me, Tronti, figuriamoci chi sarà mai possibile, cioè veramente questa è una cosa, chiudo la parentesi perché non vale la pena di starci più di tanto. Invece il riferimento, cioè partire da questo elemento che è stato fondamentale del Vietnam e di quello che ha rappresentato per i compagni. Scusami, sì. Virgilio, certo. per chi ci ascolta sempre, magari gli diamo così un vago appuntamento per un'altra trasmissione sull'esperienza dei Quaderni Rossi, poi Quaderni, sì, Piacentini. Ecco, perché su, sì, queste, sì, ultime cose che tu dicevi di Tronti, lì viceversa ci sarebbe tanto da dire, intanto, certo, perché cominciano a essere cose che magari molti di noi hanno già vissuto, no, direttamente. Sì, sì, sì. Certo. Se non molti, almeno alcuni, diciamo, per motivi di età, molti ignorano assolutamente quell'esperienza. E io non credo proprio, cioè mente spudoratamente Tronti quando dice lui non l'ha mai creduta possibile, secondo me. Questa probabilmente le cose che bisogna andare a fondo di questi, sì, aspetti, sì, sì, di quell'esperienza, di tutto il gruppo, perché poi da lì si parte pure Negri con l'operaismo. Certo, insomma, certo, l'operaismo c'ha due corni, c'ha, sì, Tronti e c'ha Negri, certo, da un, certo, lato, no? Resta Panzieri, che però muore appena dopo, diciamo, sì, 64, sì, già muore. E però da ricordare anche con l'apporto di Fortini che, per esempio, Piazza Statuto, che è, sì, l'esperienza da cui i Quaderni Rossi trae tantissima, certo, forza, linfa, certo, tantissima, erano già insomma una serie di teste che ragionavano, insomma, e lì c'è una presa di posizione precisa, un intervento, direi, certo, proprio, cioè, scrivono un volantino, certo, no, i compagni dei Quaderni Rossi, che, certo, viene distribuito nelle giornate fatidiche di Piazza Statuto agli operai, certo, della Fiat, eccetera eccetera. Ecco, da lì, da quell'esperienza che è non più ideologica, è interessante capire come reagiscono i diversi intellettuali che all'epoca componevano, sì, appunto, sì, Quaderni questo Rossi, richiede, insomma, effettivamente un'altra trattazione, diciamo, cioè una, lì, cioè, si ci vuole molto tante tempo cose per entrare nel merito, che, certo, di cui i cascami, i residui, sì, sì, sì, ce li portiamo, sì, dietro, sì, ancora, sì, certo, oggi, certo, insomma, non, no, sono, ma finiti, quello che è impressionante, insomma, è che, appunto, non è, di questo non è restato praticamente nulla. Cioè, beh, insomma, praticamente c'è un'eredità totalmente, sì, è un'eredità oggi, dico, no? Sì, praticamente è praticamente dissolto. Diciamo che probabilmente la cosa più interessante sarebbe capire per quale ragione Classe Operaia ha avuto invece un'eredità, oggi è forse l'unica rivista di quegli anni realmente conosciuta, mentre appunto anche Quaderni Rossi soltanto di rimbalzo si conosce, ma personalità come Vittorio Rieser, che è morto tra l'altro da poco, sì, o Edoardo Amasi, che è morto due anni fa, sì. Fortini stesso, Panzieri stesso, invece tutta una serie di personaggi che hanno lavorato all'inizio di quell'esperienza e hanno fornito anche l'alfabeto politico per pensare questa nuova, sì, questo nuovo ciclo di lotte, tutto sommato invece sono un po' scomparsi dalla scena. Sì, completamente, infatti noi cioè questa trasmissione vuole in qualche modo sulla figura emblematica di Fortini, che sicuramente è grande intellettuale, grande politico, va ricordato per tutto quello che ha fatto. Sì, non volevamo fare un'altra pausa musicale, questa è una canzone che mandiamo spesso da questa radio, di Ricky Gianco, che parla di questo spettro a cui Fortini non ha mai smesso di pensare e di aspettare, e ne prende tante, ne ha prese tante, ma siccome è uno spettro è difficile ucciderlo. Impossibile, diciamo. Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti Fango ebbe un padre negro e una madre pelle rossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla ed un libro per la cena. Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. In programma erano cubi con lo stemma dello Stato. Sopra il muro di Berlino se ne stette appollaiato, aspettando che passasse un editore di memorie. Passò invece una ragazza con un mitra fra le braccia, lui ne sparse del profumo sui capelli, sulla faccia. Quando arrivò in America lo beccarono all'istante, lo accusarono d'aver ucciso ben 7 presidenti. Fango conservò la calma, disse: io non c'entro niente, ho ammazzato i re di Roma, sì, i re di Roma solamente. E così lo torturarono con i ferri, con i vetri, con i fini, con i gas, con gli strumenti più segreti. Ma lui continuò a sorridere e sparì tutto d'un tratto, perché Fango non smentisce la sua anima di spettro. Stiamo parlando del Vietnam, che è stato elemento fondamentale di presa di coscienza da parte di un'intera generazione negli anni 60. Cioè bisognava prendere posizione, o stare con gli Stati Uniti invasori o stare con il Vietnam invaso. Non c'erano mezze misure né una terza possibilità. Io direi di partire direttamente dalla poesia, una poesia abbastanza lunga, di cui leggerò solamente alcune parti, proprio per la libertà del Vietnam, perché creò veramente un grande scandalo all'interno della sinistra e fu attaccata duramente appunto dal PC e dai suoi intellettuali, no? Come elemento, diciamo, di estremismo piccolo borghese al limite. Quando gli Stati Uniti producono la metà di tutto quello che il mondo produce, quando la metà di quello che mangiamo, leggiamo, impariamo è prodotto direttamente o indirettamente dalla potenza economica e industriale degli Stati Uniti, questo significa che noi siamo per metà americani e che dobbiamo non solo saperlo ma accettarlo, perché è un modo per dire che siamo cittadini di quel mondo che dall'interno del capitale si dibatte contro il capitale. Ma per un altro verso, per un'altra nostra metà, noi siamo Vietnam, siamo quello che in politica, economia, cultura, tutto il Vietnam sarebbe stato non avesse scelto in sua parte di morire piuttosto, non avesse scelto questa strada, non avessero scelto di essere pietra d'intoppo nella favola coesistenziale. Non so se questa sia una parola ultima, ma chi dice quasi tutta la verità è certo il peggior nemico della verità. Chi parla solo dell'oggi non vuole che il domani venga. Chi dice la penultima parola è il peggiore nemico dell'ultima. Mi sono chiesto all'inizio di che cosa si stesse davvero parlando, e so che abbiamo parlato del Vietnam nella misura in cui abbiamo parlato di noi, della violenza che subiamo e di quella che dobbiamo esercitare. E quindi questo, su quest'ultimo verso, in cui si richiama la parola violenza due volte, la violenza che subiamo e la violenza che dobbiamo esercitare, sì. Questa è una cosa che poi dovremmo, sulla quale dovremmo anche ci torniamo in un secondo momento, ma sempre per dare, diciamo, non solo una contestualizzazione ma una esemplificazione estremamente pratica di quanto queste bellissime parole di Fortini abbiano poi trovato un riscontro nella realtà. Tra gli slogan delle lotte alla Fiat si diceva all'epoca: Agnelli l'Indocina ce l'ha in officina. Sì, il Fiatnam. Il Fiatnam, no? Ecco queste cose qui. Certo. E quindi erano effettivamente cose reali che solo tradotte nella pratica quotidiana delle lotte, che solo l'ipocrisia di nuovo delle classi dominanti, anche certo, dal punto di vista del pensiero politico, poi impediva che avessero una legittimazione e un'espansione, certo, maggiore, certo, diciamo, no? Ma questi due elementi importantissimi, cioè noi siamo Vietnam, quindi in prima persona ci chiama, no, alla lotta con una identificazione con quella situazione, perché quella situazione è anche la nostra in qualche modo, e chiama e quella poi, lotta è anche la nostra, e chiama poi a dividersi, e no, poi appunto sul Vietnam lui dice con grande scandalo dei benpensanti di sinistra o sedicente tale che ci si divide e non ci si unisce, cioè ognuno prenda la propria responsabilità. Non è possibile, voglio dire, fare il pesce in barile o cercare altre strade, bisogna prendere con coerenza, appunto, testimoniare la verità. Questo, ecco, e su questa cosa, Daniele, sul Vietnam ci si divide, poi abbiamo assistito a tante altre divisioni, no? Ma però mi sembra che questa affermazione di Fortini abbia fatto un po' da battistrada anche da un punto di vista culturale oltre che politico a questo modo di affrontare l'unanimismo che c'era nella sinistra e svelarne, diciamo, i limiti, svelarne le ipocrisie e portare viceversa la contraddizione fino in fondo, no? Sì, sì, è evidente che questo verso chiarisce molto bene l'atmosfera di quegli anni e come poi si sia consumata effettivamente una divisione sempre più forte fra una nuova sinistra, diciamo così, antisistemica, e invece la vecchia sinistra italiana del PC e del Partito Socialista, che ormai poi aveva preso tutt'altra piega. Questi anni infatti sono gli anni in cui si salda in maniera abbastanza eccezionale e sorprendente una lotta radicata nei territori, nelle fabbriche, nella società, con un'apertura internazionalista fortissima. Questo doppio movimento è quello che poi probabilmente è iniziato poi a mancare dalla fine degli anni 70 in poi, cioè il fatto che questa capacità di aggredire gli anelli della, i nodi centrali della produzione, le forme della società e ragionare in termini internazionali, questi tre piani sono i piani che rendono poi un pensatore come Fortini oggi così poco conosciuto, anche perché lui lavora sempre su questi tre piani, essendo un lettore di Marx e un frequentatore dei Quaderni Rossi, sa benissimo che il modo di produzione capitalista va conosciuto, altrimenti la politica che può essere fatta è una politica che tutta il più poi è, esercitare delle forme di compensazione, ma niente di più. E nello stesso tempo però è chiaro che le lotte locali vanno sempre pensate in termini mondiali, proprio perché il capitale è unico e quindi l'internazionalismo è un elemento fondamentale, però sì, abbinato, questa è la cosa che è fondamentale, è abbinato ad una lotta precisa nei propri territori. Certo, ognuno parta dalla sua situazione. E l'altro aspetto che viceversa avevamo pensato, no, era quello che riguarda un altro punto cardine, insomma. Sì, sono gli stessi anni in cui Fortini scrive un libro molto importante che fece molto scandalo. Il titolo è I cani del Sinai ed è il primo libro di un ebreo, mezzo ebreo, italiano, di estrema sinistra contro lo Stato di Israele. Nel 1967, la guerra di sei giorni, e Fortini pubblica questo pamphlet contro la politica israeliana e contro la rappresentazione che i media occidentali e italiani danno di quello che stava accadendo e continua a accadere ormai da allora e anche da prima in Palestina. Prima di passare la parola a Virginio, che so che vuol dire alcune cose su Kennedy, vorrei leggere soltanto un breve passaggio di una lettera che Fortini scrisse nel 1989, altro anno abbastanza simbolico al Manifesto, direttamente indirizzata agli ebrei italiani. Poche righe, giusto per capire il tono di Fortini, che comunque ormai abbiamo capito essere quello appunto di un personaggio incredibilmente coerente, severo, appunto quasi da profeta biblico nel senso nobile del termine. Ogni giorno siamo informati della repressione israeliana contro la popolazione palestinese e ogni giorno più distratti dal suo significato, come vuole chi la guida. Cresce ogni giorno un assedio che insieme alle vite, alla cultura, le abitazioni, le piantagioni e la memoria di quel popolo, nel medesimo tempo distrugge o deforma l'onore di Israele, in uno spazio che è quello di una nostra regione, alle centinaia di uccisi, migliaia di feriti, decine di migliaia di imprigionati, corrispondono decine di migliaia di giovani militari coloni israeliani che per tutta la loro vita, notte dopo giorno, con mogli, figli, amici, dovranno rimuovere quanto hanno fatto o lasciato fare, anzi saranno indotti a giustificarlo e potranno farlo solo in nome di qualche cinismo realpolitico o di qualche delirio nazionale o mistico diverso da quelli che hanno coperto di ossari e monumenti l'Europa solo perché è dispiegato nei luoghi della vita d'ogni giorno e con la manifesta complicità dei più. La lettera poi continua, però il tono è durissimo ed è quello che Fortini ha sempre avuto sulla questione palestinese, sull'ebraismo. Ecco, due parole su questo libro, insomma, che cosa dice e perché I cani del Sinai? Sì, diciamo che I cani del Sinai si riferisce al fatto che i cani rappresentano una posizione contro quelli che amano correre in soccorso dei vincitori e che Fortini chiama appunto cani del Sinai facendo riferimento a un inesistente proverbio arabo, ma nel Sinai non ci sono cani. E quindi ecco, il soccorso al vincitore, che poi voglio dire è rappresentato in maniera veramente sfacciata dall'appoggio di tutta quanta la informazione o cosiddetta informazione, no, tutti i mezzi di informazione occidentali parlano a proposito della guerra di aggressione del 67, di aggressione israeliana, rovesciano proprio la realtà, appunto, no? Invece che testimonianza di verità diventa testimonianza di menzogna e anzi questa menzogna viene elevata, voglio dire, alla verità ufficiale. Sono stati gli arabi che hanno aggredito Israele. Ora, questo è assolutamente falso e partendo da questo elemento Fortini prende posizione ed è importante che lo faccia, chiaramente, per ovvi motivi. Cioè si misura con tutte le umiliazioni subite nell'Italia, nel fascismo, nel razzismo, eccetera, con il diffuso disprezzo nei confronti degli arabi, con l'esaltazione della civiltà e della tecnica, no, che si incarnano in Israele che si presenta come un paese l'unica democrazia del Medio Oriente, e queste favole che ci hanno raccontato e continuano a raccontarci e ci fanno rabbrividire, tenendo conto che stiamo insomma uscendo adesso, no? Abbiamo ancora negli occhi i massacri che sono stati fatti a Gaza, no? 2000 morti, e anche qui, diciamo, a partire da un pretesto, da un puro pretesto, come si è visto poi concretamente, no? E con la commozione filo-israeliana che è servita a distrarre e rinfrescare la coscienza europea ancora sporca del sangue dei lager, perché purtroppo, voglio dire, la Shoah è esistita ed è stata una cosa terribile, ma che il destino, voglio dire, di Israele sia quello di ripetere, diciamo, purtroppo, no? Di presentarsi come persecutore di innocenti, veramente diventa una cosa che colpisce la coscienza, dovrebbe colpire la coscienza di tutti, ma che invece purtroppo vediamo che non, cioè, ci sia. E quando si diceva prima, a proposito del Vietnam, noi siamo Vietnam, noi dovremmo arrivare anche a dire questo: noi siamo Palestina in prima persona, perché dovremmo salvare effettivamente da una parte l'onore appunto degli israeliani, quelli che hanno capito e che vogliono, no, una convivenza e non la sopraffazione, e soprattutto la, diciamo, l'oppressione, no, il riscatto dell'oppressione dei palestinesi. Cioè, quindi noi siamo Palestina. C'è un periodo, un po' di anni fa, una quarantina di anni fa, che le due cose andavano insieme, Vietnam e Palestina, certo, insomma, no, certo, erano. Certo, adesso si è completamente perso, e purtroppo rispetto alla Palestina, ancora oggi, diciamo, c'è una resistenza fortissima, no, ad accettare il discorso che la posizione di Israele è una posizione assolutamente inaccettabile, cioè sotto tutti i punti di vista, no? Ecco, vorrei leggere ancora due righe perché mi sembrano molto belle, sintetizzano molto bene la posizione di Fortini, che è poi la stessa di Virginio. Ogni casa che gli israeliani distruggono, ogni vita che quotidianamente uccidono e persino ogni giorno di scuola che fanno perdere ragazzi di Palestina, va perduta una parte dell'immenso deposito di verità e sapienza che nella e per la cultura d'Occidente è stato accumulato dalle generazioni della diaspora, della sventura gloriosa o nefanda dei ghetti, e attraverso la ferocia delle persecuzioni antiche e recenti. Terribile questo, sì. Però è questa la verità. Cioè, secondo me veramente coglie il punto, ed è un elemento proprio dirimente, cioè rispetto a questo stare, ecco, da una parte o dall'altra, cioè stare con Israele, con lo Stato di Israele, oppure stare con i palestinesi e dalla loro parte, che significa anche stare con la parte sana e giusta che pure esiste fra gli israeliani, questo è il punto. Gli, cioè, israeliani così, antisionisti, che poi, certo, e poi è logico, il vecchio discorso, che però è sempre da ricordare, no? Cioè, perché sennò diventa. E siamo qui a, diciamo, come contenuti in pieno anni 70, insomma, certo, il Vietnam si vince definitivamente nel 75, no? Sì. Celebrammo tutti quella, certo, bellissima giornata, insomma, e qui invece entriamo nell'Italia degli anni 70, ma nell'Italia degli anni 70, insomma, c'erano i prodromi di quello che poi sarebbe successo, che sarebbe accaduto con tutte, no, le famose stragi di Stato, a partire da quella appunto, no, a partire dalla morte di Pinelli, no? E dalla Banca dell'Agricoltura e la successiva morte di Pinelli. E c'è una cosa che forse vale la pena di ricordare, è questo intervento che Fortini ha fatto in occasione dei funerali di Pinelli. Posso dire una cosa sola prima? Certo. Fortini era anche un pittore, oltre ad essere, ha dipinto un bellissimo quadro sui funerali di Pinelli, che è stato in mostra a Siena qualche anno fa, quando fecero una mostra di tutti i quadri di Fortini, no, giusto per, si può trovare in rete, forse l'ha pubblicato Quadlibet il volume dei quadri di Fortini. Quindi si può trovare, sì. E niente, questo è i funerali di Pinelli, proprio alla, diciamo, 69, quindi partecipa ai funerali e mi sono detto: quanta gente, ma non era vero, neanche un migliaio di persone, quanti debbono aver avuto paura. Non so come, ma ho la certezza che con la strage di pochi giorni fa, l'orrendo coro dei giornali e questo assassinio di Pinelli, è davvero finita un'età cominciata ai primi del decennio. È possibile il silenzio degli uomini dell'opinione, i difensori dello Stato di diritto? Sì, è possibile, la paura è veloce. Lo dico e i vicini sono della mia stessa opinione. Chissà che cosa ci porta il domani, e sappiamo che cosa ha portato il domani. Ancora no, le stragi sì, che continuano. Dal 69 in poi ce ne sono tutti state, gli anni insomma, 70, eccetera, anni, e c'è questo discorso da riprendere. Fino al 1980, poi, appunto, la strage di Bologna, sì, certo, un decennio proprio attraversato. Che si arriva appunto a questo discorso del. No? Della violenza politica. Sì, no? Della violenza politica. Perché veramente poi quello che è accaduto ha portato a diciamo, veramente alla retorica, no? Che si è affermata contro la violenza in generale, no? Cioè senza capire le ragioni che possono motivare la violenza, perché una cosa è la violenza fascista che si esprime con le stragi indiscriminate e colpisce la gente innocente, altra cosa è la violenza di chi resiste all'ingiustizia, no? In qualunque modo essa si manifesti. Se si confondono queste due cose, si dice che comunque qualunque forma di ricorso alla violenza è una cosa inammissibile, è chiaro che questo è pura retorica, no? E, diciamo, allora lui dice questo: qualsiasi forza intellettuale e politica si organizzi come avversa ai modi già costituiti di espressione degli interessi o delle volontà, viene immediatamente denunciata come complice o apologeta o imitatrice del terrorismo, no? Il ricatto che viene fatto valere. Ah, tu pensi che sia giusto ribellarti? Perché questo è il punto, no? La ribellione comporta comunque un ricorso a una qualche forma di violenza. Se tu pensi questo, già in te c'è potenzialmente un terrorista. Qualsiasi riflessione storica o teorica sul ruolo e sul significato della violenza nella storia umana che non si concluda con la celebrazione e l'esaltazione del regime di democrazia parlamentare quale supremo vertice dell'umana convivenza e con la condanna della ricerca di ogni altra via è riprovata come opera di corruzione. E questo, scusate, è un inciso, ma è assolutamente, voglio dire, veramente insopportabile, perché è un continuo ricorso a queste false argomentazioni. Quello che i nostri invisibili ma non inesistenti padroni vi chiedono non è il pentimento d'azioni criminose o colpevoli, né tantomeno l'autocritica di errori politici, è l'accettazione, la sottoscrizione di un'idea generale di cosa sia umano e di che cosa non lo sia. E implica di farvi dichiarare vano, anzi dannoso miraggio, non solo la prospettiva politica che fu la vostra, ma qualsiasi prospettiva politica non delegata. Invece, voglio dire, un altro mondo è possibile, un altro mondo è necessario, questo diciamo, no? Ma per arrivare a questo bisogna vincere la resistenza di chi si oppone, e la resistenza si vince ricorrendo a una qualche forma di violenza, non perché sia necessario, ma perché dall'altra parte la violenza viene esercitata senza nessuna remora di nessun tipo, no? Ecco, in che occasione scrisse questa intervento, questa lettera? Diciamo, i riferimenti possono essere vari e diversi, ma mi viene per esempio chiarissimo, in no, che periodo discorso, insomma, se tu ricordi, sì, sempre periodo. Mi viene perché ho pensato per esempio alla poesia che ha scritto per Serantini, no? Cioè che si è trovato questa ragazza, questo giovane compagno massacrato dalla polizia, lui dice: il 5 maggio del 72 nella città di Pisa in Italia, in mezzo alla città, alcuni miei concittadini armati, agenti della polizia repubblicana, scatenati coi fucili rompendogli le ossa del cranio, hanno ammazzato e a calci un giovane manifestante chiamato Franco Serantini. E a quelli che lo hanno ucciso il governo ha benedetto le mani con un sorriso. Allora, voglio dire, fin qui la poesia. Il commento è: la violenza in quel caso esercitata dalla polizia che, no, che uccide in questo modo un compagno, è chiaro che provoca inevitabilmente una reazione in tanti che pensano, no, che allora no, com'è possibile? Non ci si può ribellare in nessun modo, cioè bisogna accettare puramente e semplicemente la situazione così come si presenta? E questo è assolutamente inammissibile. E quindi, voglio dire, questa può essere un'occasione. Adesso la poesia è lunga, il tempo forse non abbiamo ancora altre cose da approfondire, quindi forse varrebbe la pena di spostarci appunto su quest'altra questione, che poi è, non a caso, l'altro momento della sul quale va fatta una riflessione abbastanza approfondita, che riguarda, diciamo, la guerra del Golfo, no? Sì, prima volevo soltanto aggiungere una cosa rispetto agli anni 70 e alla violenza politica. Fortini fece un seminario all'interno di San Vittore con una parte delle Brigate Rosse. Sì, sì. E poi scrisse una lettera che è molto bella, è molto anche, insomma, è una lettera abbastanza strana, nel senso che la posizione di Fortini è questa. Fondamentalmente dice ai ragazzi, alle persone delle Brigate Rosse, ai brigatisti: attenzione, voi vi stanno facendo fare una autocritica morale e non un'autocritica politica. Cioè la violenza politica è stato un errore politico in quegli anni, non è stato un errore morale, mentre quello che tutti vogliono da voi è una autocritica morale. E questa posizione ovviamente fu una posizione molto attaccata, soprattutto all'inizio degli anni Ottanta, quando eravamo alla fine comunque del periodo della lotta armata. Per quanto riguarda invece poi gli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, ovviamente probabilmente sono due gli eventi storici su cui lui riflette di più. Una è ovviamente la caduta del muro, certo, quella del Golfo, e poi alla fine ovviamente la dissoluzione dell'Unione Sovietica, che sono tre momenti simbolici, certo, che molto forti. E per quanto riguarda la caduta dell'89, io direi partirei da quello. C'è una dichiarazione molto bella del 1990, dove Fortini, credo rilasciato un manifesto se non sbaglio, dove Fortini parla in realtà delle conseguenze che la trasformazione complessiva del quadro geopolitico avranno sull'Italia. Lui dice: siamo entrati nel macello della prima guerra mondiale su di un patto segreto, il patto di Londra, all'insaputa del nostro Parlamento. Siamo usciti dalla seconda guerra mondiale ignorando i termini di Yalta, che avrebbero reso impossibile, a meno di finire dissanguati come in Grecia, ogni forma di presa di potere da parte delle sinistre. Dopo 40 anni è finita, per così dire, la terza guerra mondiale. Ci spiegano quello che tutti sapevamo, cioè che i bambini non sono portati dalle cicogne e che l'America avrebbe formato da noi i suoi contras per impedire la sinistra al governo. Abbiamo dunque avuto ragione con i movimenti degli anni 60 e 70, denunciando gli elementi di provocazione interni al terrorismo. Una mia opinione personalissima, che non saprei svolgere e giustificare del tutto, è questa: quello che accade nella confusa mischia nazionale è forse provocato, siamo nel 1990, da quelle medesime forze atlantiche che hanno controllato fino a ieri l'Italia come portaerei antisovietica. Oggi essa farà parte invece delle forze armate anti-arabe e soprattutto anti-sud, che gli Stati Uniti useranno non solo e non tanto nel Golfo, ma per uno scenario di guerre future. La vecchia classe dirigente italiana non serve più. Si può lasciare che tra qualche mese Andreotti e altri, dopo 40 anni di fedele servizio, se ne vadano in pensione, e con loro tutta la vecchia baracca politico-sindacale. E questo è interessante, lo dice nel 1990. Avremo le parole d'ordine della virtù e dell'austerità. Con un regime autoritario, presidenzialista, socialdemocratico, populista, peronista, gestito da un'agenzia a capitale misto, magari con la partecipazione di Formica o di Veltroni. Le ghiande della guercia PDS, e quindi oggi diremmo PD, ingrasseranno gli eterni maiali delle vecchie e delle nuove nomenclature. Questa è la sua posizione nel 1990. Profetico da un certo punto di vista, veramente impressionante questa cosa. Questo l'ha detto al manifesto, dicevi? Sì. Che evidentemente non è che ha capito molto bene il messaggio, perché ancora spera che nel PD per qualche miracolo. Sì, purtroppo questo è un elemento fondamentale, cioè nutrire speranza laddove, voglio dire, questa speranza è assolutamente infondata, significa condannarsi all'impotenza, che è esattamente quello che è accaduto a gran parte della sinistra, anche sedicente rivoluzionaria, no? Perché poi questo è il punto. E l'altro elemento invece fondamentale l'altro elemento fondamentale sul quale avevamo deciso in qualche modo di dare una diciamo testimonianza noi è la guerra del Golfo, perché è anche l'ultima guerra, diciamo così, che Fortini vede concretamente, cioè assiste a questa cosa con raccapriccio e con sdegno, e nello stesso tempo si rende conto appunto delle implicazioni che ci sono dentro questo fatto, no? Certo, perché è la prima guerra senza l'Unione Sovietica, cioè senza un minimo di contrappeso dall'altra parte, quindi con la possibilità che capitalismo statunitense, che io direi il capitalismo che governa il capitale mondiale, abbia spazio aperto per governare tutto e nello stesso tempo per distruggere tutto, perché poi in Fortini è molto chiaro, è un principio marxiano, che il capitalismo più avanza e più distrugge. Più distrugge anche se stesso e tutti quanti. Leggerei semplicemente qualche riga. La guerra in Europa 1993, anche questo è un articolo che la Fortini ha pubblicato su Manifesto. Sappiamo quindi che un potere distruttivo e coercitivo reale, capace di far passare in poche ore centinaia di migliaia di corpi allo stato di carogne da seppellire con i bulldozer e di atterrire decine o centinaia di milioni di altri esseri umani, si associa oggi ad un potere di mistificazione quale così rapido, esteso, profondo, radicale e per buona parte volontario non si era mai dato nella storia del genere umano. Per fortuna appunto la guerra del Golfo è un salto di qualità del potere autodistruttivo del capitale mondiale. Questo è un elemento molto importante. D'altra parte ritorna anche qui diciamo questo insopportabile unanimismo della stampa che si schiera a favore dell'intervento falsificando in maniera volgare la realtà, no? Non solo, vabbè, ricordiamo il puro pretesto delle armi di distruzione di massa inesistenti. Beh, che poi voglio dire, invenzione, voglio dire, no, che è costata centinaia di migliaia di morti. E quindi contro l'unanimismo filoamericano, la falsa lotta contro il terrorismo, perché questo è il punto, no? Si è detto, ma allora, no, Saddam terrorista, tutte queste cose, mentre il vero terrorismo, poi quello che si è espresso, i compagni lo hanno detto scendendo in piazza molte volte, è quello di chi scatena una guerra che è in effetti un'operazione di polizia che provoca centinaia di migliaia di morti. Cioè bisogna riportare all'ordine chi all'ordine si è ribellato in qualche modo, no? E quindi una guerra che poi è falsa nei moventi, sostanzialmente, è ipocrita negli scopi che si propone, perché dice delle cose ma in effetti ne pensa assolutamente altre, quindi il controllo strategico di una zona nevralgica dove si produce il petrolio, è inutile girarci attorno, è anche forse troppo semplice, e poi purtroppo assurdamente asimmetrica rispetto ai risultati, cioè non c'è proporzione fra i morti iracheni e i morti americani. È bruttissimo fare questo tipo di ragionamento. Io stesso ne voglio dire, mi vengono i brividi a pensare che uno debba fare un ragionamento di questo genere, però mi viene di farlo, perché da una parte ci sono state centinaia di migliaia di morti, dall'altra parte un numero estremamente ridotto, perché la sproporzione, no, in armamenti e in forza militare era talmente grande che questo. Ora lo stesso si è verificato, non a caso, ricordiamo, l'abbiamo detto a proposito di Gaza prima, cioè una sproporzione, cioè i morti. Purtroppo vorrei portare appunto l'elenco, no? Quanti morti palestinesi e quanti morti israeliani, e però voglio dire la bilancia pende dalla parte palestinese in una maniera impressionante. Cioè perché? Perché purtroppo c'è questa asimmetria, cioè c'è una forza che si esercita spietatamente e che provoca appunto guasti e lutti all'infinito. E questo è il discorso. Poi insomma, diciamo proprio questo è già tema di oggi, i risultati sono completamente opposti a quelle che erano le intenzioni manifeste dell'epoca, no? Cioè esportare, certo, la democrazia, togliere i tiranni di mezzo, eccetera, eccetera, ha creato viceversa quello che, a cui assistiamo oggi. Con, certo. Per esempio la creazione dell'Stato islamico, ma non solo, insomma. Certo. Però Daniele, insomma, sì, voleva. Sulla guerra del Golfo, poi Fortini ha scritto 7 canzonette, che poi ha pubblicato nella ultima raccolta. Il tono delle canzonette è un tono ironico, nel senso che. Ah sì, certo, è quello, lontana lontana, infatti volevo leggerla velocemente. Sì. Sì, sì. Sono 7 canzonette dove in realtà viene ridicolizzata la propria possibilità di agire in una condizione ormai così. Di fronte alla guerra, dico. La guerra del Golfo, ormai così sfuggita di mano addirittura dai termini della percezione reale di quello che sta accadendo. La canzonetta ha un ritmo che è quello del coro della Delchi, manzoniano, sì, sono sì. dei casillabi, anapestici, esatto, sì, sì. E ha quindi un tono molto martellante, un tono anche molto divertente, sì. Ed infatti autoironica. La leggo, è molto breve, dice: lontano, sì, lontano si fanno la guerra, il sangue degli altri si sparge per terra. Io questa mattina mi sono ferito a un gambo di rosa pungendomi un dito. Succhiando quel dito pensavo alla guerra. Oh povera gente, che triste è la terra. Non posso giovare, non posso parlare, non posso partire per cielo o per mare. E se anche potessi, o gente indifese, ho l'arabo nullo, ho scarso l'inglese. Potrei sotto il capo dei corpi riversi posare un mio fitto volume di versi? Non credo. Cessiamo la mesta ironia, mettiamo una maglia che il sole va via. Sì, a questo punto è disperante la situazione, no? Alla quale fa riferimento, cioè sembra che non ci sia più nulla da fare, invece resta tanto da fare, cioè resta quello che tutti quelli che pensano sia questo mondo sia ingiusto e debba essere cambiato hanno come obiettivo, al di là delle oggettive difficoltà di riuscire, e sono tantissime, di riuscire a farlo. Allora abbiamo pensato di chiudere questo nostro intervento con riferimento al comunismo, no? Comunismo, innanzitutto, che cos'è il comunismo per Fortini? E a questo punto, Daniele, leggi tu questa prima parte, poi mi passi. Sì, tra l'altro questo testo che si intitola Che cos'è il comunismo fu pubblicato nell'89, sì, quindi sì, l'anno della caduta del muro di Berlino, su Cuore, quindi è supplemento sì, dell'Unità, sì, allora diretto da Serra, e quindi pubblicato su un supplemento ironico, cioè di, insomma, di ironico, dove, insomma, fumettistico, divertente, satirico, satirico, sì, esattamente. Il combattimento per il, inizia così: il combattimento per il comunismo è già il comunismo, è la possibilità, quindi scelta e rischio, in nome di valori non dimostrabili, che il maggior numero di esseri umani possibile, e in prospettiva la loro totalità, pervenga a vivere in una contraddizione diversa da quella oggi dominante. Unico progresso, ma reale, è e sarà il raggiungimento di un luogo più alto, visibile e veggente, dove sia possibile promuovere i poteri e le qualità di ogni singola esistenza. Continua poi, chiaramente, questi sono solamente estratti, no? Parti. Negli oppressi e sfruttati sono migliori fin tanto che ingannano se stessi con la speranza di trasformarsi a loro volta in oppressori e sfruttatori di altri uomini. Migliori cominciano a esserlo invece da quando assumono la via della lotta per il comunismo, che comporta durezza e odio per tutto quello che dentro e fuori degli individui si oppone alla gestione sovraindividuale delle esistenze, ma anche flessibilità e amore per tutto quello che la promuove e la fa fiorire. Il comunismo in cammino, un altro non esiste, è dunque un percorso che passa anche attraverso errori e violenze, tanto più avvertiti come intollerabili quanto più chiara si faccia la consapevolezza di cosa gli altri siano, di che cosa non si sia e di quanta parte di noi costituisca anche gli altri e viceversa. Il comunismo in cammino adempie l'unità tendenziale tanto di eguaglianza, fraternità e condivisione, quanto quella di sapere scientifico e di sapienza etico-religiosa. La gestione individuale di gruppo intenzionale dell'esistenza, con i suoi inseparabili nessi di libertà e necessità, di certezza e di rischio, implica la conoscenza delle frontiere della specie umana e quindi della sua infermità. E si conclude con: il comunismo è il processo materiale che vuole rendere sensibile e intellettuale la materialità delle cose dette spirituali, fino al punto di saper leggere nel libro del nostro medesimo corpo tutto quello che gli uomini fecero e furono sotto la sovranità del tempo, e interpretarvi le tracce del passaggio della specie umana sopra una terra che non lascerà traccia. Qui c'è un'eco leopardiana chiarissima, secondo me. E anche cabalistica. E anche cabalistica, certo, c'è il riferimento alla tradizione ebraica, c'è sicuramente, forte. Però detto questo, su che cosa è il comunismo in generale, poi forse la cosa importante, e su questo possiamo in qualche modo chiudere, è il riferimento al suo essere comunista, cioè Fortini che scrive una poesia che si intitola Il comunismo, ma che parte con il primo verso che dice: sempre sono stato comunista, sempre sono stato comunista, ma giustamente gli altri comunisti hanno sospettato di me, ero comunista troppo oltre le loro certezze e i miei dubbi, giustamente non m'hanno riconosciuto, la disciplina mia non potevano vederla, il mio centralismo pareva anarchia, la mia autocritica negava la loro. Non si può essere comunista speciale, pensarlo vuol dire non esserlo. Così giustamente non m'hanno riconosciuto i miei compagni, servo del capitale io come loro, più anzi, perché lo dimenticavo, e lavoravano essi mentre io il mio piacere cercavo. Anche per questo ero sempre comunista, troppo oltre le loro certezze e i miei dubbi, di questo mondo sempre volevo la fine, ma la mia fine anche, e anche questo, più questo, li allontanava da me, non le aiutava la mia speranza, il mio centralismo pareva anarchia. Com'è chi per sé vuole più verità, per essere agli altri più vero e perché gli altri siano lui stesso? Così sono vissuto e muoio. Sempre dunque sono stato comunista, di questo mondo sempre volevo la fine. Vivo, ho vissuto abbastanza per vedere da scienza orrenda percossi i compagni che m'hanno piagato. Ma dite, lo sapevate che ero dei vostri voi, no? Per questo mi odiavate? Oh, la mia verità è necessaria, dissolta in tempo e aria, cuori più attenti a educare. E a questo punto forse la conclusione, diciamo, può essere una poesia, cioè può essere letta, diciamo, alla fine questa poesia, che è di fatto una metafora della rivoluzione, della possibilità di un cambiamento radicale, che si intitola La Gronda. Scopro dalla finestra lo spigolo d'una gronda in una casa invecchiata, che è di legno corroso e piegato da strati di tegoli. Rondini vi sostano qualche volta. Qua e là sul tetto, sui giunti e lungo i tubi, gore di catrame, calcine di misere riparazioni. Ma vento e neve, se stancano il piombo delle docce, la trave marcita non la spezzano ancora. Penso con qualche gioia che un giorno, e non importa se non ci sarò io, basterà che una rondine si posi un attimo lì perché tutto nel vuoto precipiti irreparabilmente, quella volando via. E questa metafora è riferita a quello che lui nell'altro testo che è stato letto diceva: io voglio la fine di questo mondo, ne voglio la fine, e questo insomma evoca proprio quella fine là, no? Io tra l'altro siamo stati più che bravi proprio nell'osservare i tempi della cosa, però certamente ci rendiamo conto che siamo riusciti, speriamo almeno di esserci riusciti a dare un'idea di questa grande figura, di questo grande compagno, insomma. Certamente ci proveremo a fare magari un'altra trasmissione dove cose che oggi sono state accennate di volata magari riusciremo a entrarci più nel merito e anche poi a trattare gli altri aspetti della figura di Fortini, che sono quelle del letterato e del poeta. Oggi ci siamo sicuramente più indugiati sul perché lo riteniamo giusto, più evidente, più attuale, più producente rispetto certo. all'oggi, sulle sue prese di posizione politica, su questo suo essere militante impegnato, intellettuale, non impegnato perché è bruttissimo, l'avrebbe rifiutato, insomma, sì, senz'altro, ecco. Senz'altro. Non intellettuale, impegnato gli faceva schifo sicuramente, tanto meno organico, ecco. Organico sicuramente no. Quindi ci proveremo, insomma, speriamo di riuscirci. Come sempre il telefono è aperto per chi ha ascoltato, volesse intervenire. Noi intanto qui ringraziamo Daniele e Virginio per l'aiuto, l'apporto che hanno dato a questa trasmissione e soprattutto, insomma, pensando di aver fatto una cosa gradita a chi di Fortini aveva avuto poche possibilità di avvicinarsi a lui. Speriamo di avergli sollecitato delle curiosità, se non altro, insomma, e quindi a cercare qualche suo testo, qualche sua opera. Anche se bisogna dire che non si troverà nulla, perché in libreria non c'è più nulla. C'è solo il Meridiano, credo. Ma magari queste librerie di libri fuori catalogo, su internet molte poesie, qualcosa si trova. Le bancarelle che sono sempre una fonte un'ultima noi. Cosa quello che si può dire è forse... però non l'hanno ripubblicato insomma questo una ultima cosa che volevo ricordare ai compagni in ascolto è che entro novembre, proprio in occasione della